si tratterebbe di un osservatorio per il quale sono stati incaricati 4 legali, tra i quali uno di questi è difensore di alcuni principali imputati del processo Emilia, per valutare il contenuto degli articoli di giornale o comunque delle notizie del mondo dell'informazione relative complessivamente all'attività giudiziaria, ma è del tutto evidente che l'iniziativa ha una stretta relazione con quanto sta avvenendo nell'ambito del processo Emilia. Gli intrecci, le relazioni e i collegamenti sono abbastanza evidenti e quindi a nostro giudizio, come peraltro è stata la valutazione fatta anche dalla Federazione Nazionale della Stampa, per quanto riguarda il sindacato confederale è un atto grave che tende a limitare il diritto di informazione e la libertà di informazione e soprattutto tende a farlo su vicende quali quelli ad esempio il procedimento in corso contro la criminalità organizzata, almeno questo a nostro giudizio è l'intenzione, seppur non esplicitata, con quindi conseguenze molto gravi per quanto riguarda appunto un diritto che è costituzionalmente garantito. Sì, in particolare insomma con l'articolo 21, voi dite il rischio è che ci siano autocensure o limitazioni da parte appunto nei giornalisti, nel lavoro dei giornalisti? Ma insomma in questi mesi, in questi anni, il tentativo di limitare, intimorire la stampa sono stati ripetuti, naturalmente noi non vogliamo attribuire esplicitamente questa attenzione alla Camera Penale di Modena, però nonostante loro dichiarino contrario, questo può essere l'effetto, cioè quello di far trapelare il meno possibile da ciò che avviene nelle aule dei tribunali, quando noi abbiamo fatto una battaglia in primo luogo per tenere in quei luoghi quel processo e poi per far partecipare la società civile, l'intera collettività a quella vicenda processuale. E devo dire che c'è stata una fase nella quale forse l'informazione non aveva ancora dato tutta l'attenzione necessaria a quel processo, che poi in realtà è evoluta verso una capacità di informare la collettività su vicende che sono fondamentali per il futuro, comprendere quello che è accaduto in questi territori, nei territori emiliani, nella vicenda della penetrazione andrangheta è fondamentale e quindi il ruolo di informazione era ed è e sarà fondamentale. Quindi azioni che hanno questo significato, che vogliono in qualche modo creare un clima che può appunto intimorire chi giornalisti, chi deve gestire l'informazione, a nostro giudizio è un fatto grave. Poi è grave che si dica l'informazione condiziona l'opinione pubblica e indirettamente anche i giudici. Mi pare che l'autonomia dei giudici sia fuori discussione. Però a volte si dice la stampa specula, fa processi mediatici, i processi si devono tenere in tribunale, non sui giornali, però appunto voi dite ci sono già gli strumenti per perseguire chi sbaglia. Ma certo, perché adesso nessuno qui è a sostenere che non sono mai accaduti fatti che hanno visto una gestione, diciamo così, non adeguata, non corretta, a volte anche dell'attività di informazione. Sicuramente sono fatti che sono accaduti, ma non c'è dubbio che la soluzione non sta nel limitare direttamente o indirettamente la libertà di informazione. Questa deve essere in primo luogo salvaguardata e laddove ci sono comportamenti che violano determinati diritti o principi che sono addirittura principi costituzionali, naturalmente ci sono tutti gli strumenti per perseguire chi agisce in quel modo, ma se si fa un'operazione a monte, a priori, che tende a dire appunto che bisogna limitare l'informazione, addirittura attendere le sentenze, che sarebbe paradossale, insomma, in un processo come, pensiamo al processo Emilia, un processo che durerà 2 anni e si dovrebbe attendere le sentenze per poter dire all'opinione pubblica cosa è accaduto in queste terre, insomma, veramente una cosa che non sta nel cielo dell'interno. Ecco, uno strumento simile esiste anche a livello nazionale e Reggio Emilia sembra intenzionata a seguire l'esempio di Modena. Beh, adesso noi abbiamo imparato nel dibattito che si è aperto in questi giorni che appunto già dal 2015 esiste un analogo strumento nazionale e questo non cambia di una virgola il nostro giudizio e quindi siamo assolutamente a fianco della Federazione della Stampa nel sostenere l'inappropriatezza di questi strumenti, la non trasparenza è evidente, perché quello è uno strumento, non è un soggetto terzo che valuta, ma un soggetto di parte e spesso sono gli avvocati avvocati difensori, di imputati in anche in importanti processi, e quindi quella strada è una strada sbagliata. E ha fatto un errore a nostro giudizio la Camera Penale di Modena, non la condividiamo, farebbe un errore la Camera Penale di Reggio Emilia o qualsiasi altra Camera Penale a seguire quella strada. Se il tema è garantire diritti e libertà costituzionali, sia quelle del giusto processo sia quelle delle libertà di informazione, ragioniamo di strumenti che possono in maniera trasparente e corretta verificare e garantire che appunto questi vengono salvaguardati.